un'analisi a questo punto sui campionati esteri vada fatta, dopo essersi stropicciati gli occhi, lodato il grande gioco, perché non sono soltanto dati numerici importanti, perché 8 gol si possono anche, cioè, di solito se fai 8 gol almeno qualcuno bello ti riesce, però devo dire che ieri ad esempio i 5 del Barcellona sono tutti pazzeschi, cioè sono tutti gol onestamente imbarazzanti per chi li subisce, ma obbligano alla lode, perché sono talmente veloci, belli, costruiti, pensati, lavorati in verticale, cioè cose che spesso non si vedono più con questi palloni filtranti dentro con il contagiri. E quindi dobbiamo dire che queste sono state tutte vittorie spettacolari. A questo punto c'è forse il lato B, cioè interrogarsi se questa superiorità non sia diventata un po' troppo imbarazzante, come credo che qualcuno ti abbia scritto, Gigi. Sì, per esempio, non so, leggo un'opinione appunto tra quelle arrivate. La bellezza del calcio spagnolo sarebbe dunque Saragozza Real 0-6 e Barça Villarreal 5-0. La superiorità del duopolio spagnolo sul campionato italiano non riesco proprio a vederla. Le partite del campionato spagnolo sono parecchio noiose, molto meglio il calcio inglese, quello tedesco, e va bene. Fin qui, insomma, io ripeto, non condivido, ma posso anche starci. La frase successiva però è: un occhio magari non si potrebbe buttare anche Paris Saint-Germain con il divino pastore. Allora al divino pastore mi sono fermato, perché il divino pastore ci si ferma. Mi sono pastore maiuscolo.